casino. Dove tu? Va bene. Avanti, leoncino, cambio. Che è il muso, Roberto? Ora è matto. morto, vedo. Ma facciamo un attimo di modificare, guarda là, ecco, quello lì è morto. Ecco, l'ho fatto questo baracchino qua. Quello che ha fatto questo baracchino qua. Ma il baracchino lì l'ha fatto Roberto. Questo, questo era il mio. L'altro è già Mauro, l'ha fatto Roberto. Ma tu l'ho fatto qua? Allora, l'altro è già Mauro, l'ha fatto Roberto, questo l'ha fatto l'animatore di Oristan. Questo è il primo che aveva fatto il Gigino e aveva dato a me. Capito? Questo è il primo che ha fatto Luigi e l'ha dato a me. L'altro invece è quello che c'è a Mauro e l'altro il secondo che aveva fatto Luigi. E poi vabbè tutti gli altri, ma ne ha fatto anche 6 o 7, quindi. Non ho capito. Ora mi fa baracchi modificati a Roberto Rapido. Roberto Rapido, non lo conosco. Mi sto usando infatti il microfono, quello della gang, quello che mi hai dato tu, perché l'altro è troppo cupo. Allora sto usando questo, già va bene. Dove sei arrivato, Lume? Vabbè sì, non ti rischio, ho portato il tuo questo da 30 watt, che mi ricordi io a 30 watt. Come il segnale da te, Luca, buono, ma la via troppo alta, come? No, per me capisci io per 30. Ah, è 30 watt, 27 watt modulati, dai. La radio non è buona, va bene così. Ma mi piace, ecco. Lo so. No, non riesco a regolarlo bene. Io mi ricordo che era così. Ora, ora. Va, così è quasi... è quasi tutto chiuso, blu. Forse il microfono va bene, non lo so. No, il microfono è quello delle gay che usiamo sempre. Il problema è che questa radio è rimasta ferma un bel po' di tempo, parecchio, parecchio. Allora l'impressione che voglia rimandare a televisionale perché vado a regolare l'eco proprio nella parte della ripetizione. E non regola più blu. Ma io compreso, non lo so qua. So cosa dirti? Anch'io non lo so. Non lo so, blu. Avanti, dove? Adesso lo chiudo tutto, così è tutto chiuso. Non so, ha parlato. Avanti, Domenico. Ero chiuso apposta per vedere se chiudeva, ma chiudere chiude, ora, ecco qua, però non regola, non mi abbassa la ripetizione, vuol dire c'è qualche problema sicuramente all'interno. Ciao, ben sentito. contrappago con tutto e Domenico. Salutone Claudio, salutone anche a Luca. Ciao Falchetto. Ciao Claudio, mamma mia come sto. Via via. Ce l'ho mai bucato che ci volte che ha messo la tacchina a ripiri. Sì, anche io no, io vedo neanche un lato nel video. Allora, ce la faccio anche a camminare, con quelle scarpe antifortunistiche tutto il giorno, domani devo tenere tutto il giorno lo stesso perché ci sono i colori a Trucco Reale e se non ti vedono con quelle scarpe guai, è un casino. Mi ascolti bene o ho anche regolato bene? Sì, sì, sì, abbastanza regolato bene, sì, sì. Sono dappertutto, Domenico. Appa Domenico. se mi stai ascoltando, fate la buona, dai. Buon trabacco, buon rientro con tutto, dai. Tutte le migliori. Ciao, vai. Non lo senti più perché? Ma tu lo senti? No, io ti ho provato anche con l'altra radio, ma non lo sento. No, no, no, ho sentito pio, forse sarà secondo Birgo di Adra. Cappadoci. E basta, non lo so, non lo sento più. No, neanche io. Appagata, andiamo a bella. Anche se la luce, io. E manca anche la recessione ogni tanto. Deve essere poco brutta la radio, Brento. Ho paura di aprirla. Certo, sarà molto pieno di polvere. Poi gli attacco la macchina in estrema. Cappa. Prova a parlare. Attento, Claudio. Se si nascolto, cambio basso. Ah, è con una sola, se ne sente qua. Una colonnina sola si sente. Mamma mia. Chissà cosa gli hanno combinato. Quando la radio rimane così, non farà rotto le palle. Vabbè. Non fare, no. Ah, eccola qua. Adesso sto sentendo, va. Prima non sentivo. Andiamo bene. Cappa, cappa. Comunque quegli spinotti femmina lì hanno qualche problema, eh? Beh, sicuramente si vede. Ora, qui, qua, adesso non sento più, Lì non sento più. No, non te lo tenevo lì, ragazzi. Ma sicuramente sì, qualche problema. Eccolo qua. Eccolo qua, lì. Sì. Ci sarà qualcosa all'interno di quella spinotto femmina che non li fa massa. Aspetta, sto cercando l'adattatore, quello che avevo prima, se lo trovo per questa radio. Lascia di più longa. Cappa, cerca, sono qua. C'era da sta combinando Mauro. Già mi stia combinando. Sta passando il cavo nel cassettone con Torino sicuramente. Cappadoci. Beh, non voglio fare niente, Mi sono rotto le palle. Ehi, Carlino. Già lo vedo qua. Non viene, non fa niente, deve riposarsi un po' perché è un macello. Infatti, non mangio più carne. Sono 9, ma 10. Adesso non lascio il 4, già mangiato letto. No, ancora no. Allora, siamo in due che non abbiamo mangiato. Prego, che adesso lascia la sciacquata e ciccia. Ehi, dai, sentiamo tra un pochino, ok. Ehi, Claudio, va bene, a frappè. Va bene, a frappè, dai, sentiamo dopo. D'accordo, a dopo. Mauro. Più. Vediamo. troppo fermo, magari il potenziometro non va più a chiudere, bisogna piantare le funzioni e vedere com'è. I watt sono sempre giusti, è tutto regolare, l'unica cosa che non chiude la ripetizione, deve chiudere, è passato quel cavo. Ma l'hai fatto uscire dall'altro foro oppure lo fai domani? Va benissimo, voce, capisci a me? Questo lo conosci molto, ma molto, molto bene tu la radio. Ok, non è quella di Mauro, va? La conosci molto, molto bene. È stata la tua e poi la mia, ti ho detto tutto. Positivo, ma tu lo senti tu, ma gli altri non lo sentono così, lo ascolti tu. Questo vedi, Palmirio, che è quel brutto di Salvatore Branca che l'ha mandato Palmirio su incontinenti a fare. Lo stavo provando adesso. Ah, va bene. Tieni conto, come riferimento ti do, sto usando il microfono dell'Again. Mi hai capito? Il microfono dell'Again, che tu mi dicevi sempre che mi assomigliavo a Gianni Voltoio, l'hai detto anche poco fa. Te la ricordi questa radio, sì? Macchina blu, con l'antenna piccolina che poi si è portato via il nostro amico. Positivo, no, ti ho riconosciuto, ti sembravi Gianni Voltoio, te l'ho detto. Secondo te non ha cambiato niente, va bene così, anche come ripetizione lui. E poi mi siete da prima, è giusto, mi siete da prima, ecco non ce n'è quasi nulla, mi è poco, mi aumentalo appena e poi ti do la conferma, la radio va bene. Guarda, te lo aumento mentre sto parlando proprio, io mi ricordo che la posizione che mi avevi detto tu era questa. Adesso l'ho aumentato leggermente, proprio un pelino, vai, a un quarto. Aumentato? È positivo. No, perché, Claudio, da quando avevi tornato tu, poi l'avevo portato e avevo fatto fare dei lavoretti, capito? E l'abbiamo cambiato un po', è tutto cambiato da quando ce l'avevi tu, hai capito? È tutto cambiato, capito? Però va bene, Claudio, va bene, che è più che bene. Dici tu, il maestro di questa radio sei tu, e quindi mi fido alla tua parola. Infatti ti stavo per telefonarmi, ho detto ma lo sto andando a cena e tu rientro, ho sentito te, sono tornato indietro, proprio per fare qualche regolazione. Però se secondo te va bene così o vuole aumentare ancora, non ci sono problemi. Guarda come adesso, tu lascialo così. Dimmi una cosa, l'eco dove? Nel Michigi o in quello dove rimane l'eco? Nel RFG l'avevi messo qua. Nel RFG centrale, perché aveva sbagliato, se ti ricordi. In quello centrale. Così ti avevo fatto cambiare io, perché tu ce l'avevi al contrario prima. E quel lavoro l'ho fatto io, la radio e tu il Michigi ce l'hai libero. Puoi aumentare e diminuire la radio, giusto? Esatto, infatti adesso il Michigan è tutto al massimo lui. Se tu per esempio lo chiudi appena appena ti rallenta l'eco. Allora guarda, io lo chiudo appena appena, ecco qua, e mi rallenta l'eco così, eh. A vedere che cambia, lo devi richiudere bene, è giusto, adesso è perfetto, l'hai chiuso appena appena, ti fa la voce ancora più corposa, più grossa, e l'eco la rallenta. Ecco, ormai io mi ricordavo che chiudeva, perché tu una volta mi hai fatto chiudere un po', che mi ha detto che era troppo forte. Però io non mi ricordavo se era sul Mickey Gay, capito? Adesso ho chiuso un pelino, e c'è un quarto di eco, proprio un quarto di pomello, neanche un quarto, va bene così? Positivo, al 100% così, lo stavo provando, questa radio voglio vedere quanti fatti da, se non ho detto bugie, se non ho detto verità, capito? Questa qua è quella che dà sempre 30 watt, regolabili però, quelli che avevi fatto tu regolabili. Un attimo, allora l'altro, c'è il doppio modulatore, mi dico lì, e quello con il doppio modulatore è quello lì allora. Il primo però no, non hai capito qual è. È quello che era sempre dentro l'armadio, mi Gigi. Positivo, positivo. Copiato, ti ho capito, dai, ho capito tutto, già ho capito. Le conosco, grazie, io le conosco da come gira lì, hai capito, Claudio. Positivo, vai. Infatti hai detto poc'anzi, quello è quello che ho fatto da zero, hai ragione. Perché quello che ti avevo, se ti ricordi, avevo preso io e tu l'avevi fatto da zero. Che ce l'aveva mandato con quei buchi, erano le coperchie, le ho messi nuove, ti ricordi? Quello lì a me. No, ma guarda, io stavo aspettando a te, stavo per telefonare, ti ho detto, mi sposto al 45 e mi faccio le regolazioni con Luigi e lui è... sa come farle, va. Tutto ok, tutto a posto, va bene, va bene. Faccio, devo fare un solo controllino qua, voglio provare questi fatti di questa cosa, di questo Cerveriga Soft, devo provare solamente i fatti. Vediamo un po'. Così, no? Vediamo, Mauro. Come ti ascolto? Senti, se che mi sto facendo un po', aspetta un attimo, le stazio. E gli ho piazzato l'antenna stasera, Mauro. E qua sta arrivando, Mauro, è quasi 9.10, 9.5 abbondante, va. Bene, sono a bordo suo e lo provo su, vabbè. Su a casa. Però me lo risponde molto bene, infatti sono 27 e la regolazione è perfetta adesso. E sto usando il microfono della Gain, non quello originale suo, capito? Sto provando il microfono della Gain. Va bene, d'accordo. Avanti, Maure, qua sì. Allora, con la 48 stai arrivando 9, quasi 10. Mentre con l'MS 200 io noto una differenza di qualcosa. Non ci arrivi a 9,10, sì, 9,5 qua. E anche quello è da verificare. Anche quello da verificare, vedere un po'. Problema. Salvatore, quello che c'è la regolazione delle ruote dietro, col pomellino dietro, quello lì è. No, ce l'ha davanti, ce l'ha. Senti neanche tu, Antonio. Assolutamente, allora, lo vedo, quella mi chiama antenna, è un uomo direzionale, non verticale, tra l'altro lavora anche cortocircuitata, vuol dire c'è qualche punto chiuso, non lo so. Va bene, non è ora di ecco, lo spengo e commuto l'altra radio. Allora c'è qualcosa bene, Gigi, dai, fatela buona, dai. Ce la ascoltiamo domani mattina. Antonio, proprio il mio trattano, quello a passo l'attore. dopo quello lì, mettiamo il palo, quando tu lo tiri tutto su quel palo, è la stessa altezza di quell'antenna. Vabbè, lo proviamo Mauro, lo proviamo, perché se no bisogna cambiare posizione. Se la lasciamo sempre lì in quella posizione, per me non cambia niente anche mettendola sotto il palo. Dobbiamo cambiare la posizione, metterla dall'altra parte, come avevo detto io. Però dice che siamo in che dice che quell'antenna non è la sua, quindi dobbiamo andare pure in antenna in lascia. Dobbiamo trovare una soluzione, dai, già la troviamo. Tranquillo che la troviamo. Ciao, non capisco perché quell'antenna lavori così. Io ti sento benissimo. Sì, no, è qua, su 440, 910 sulla 48. Quindi, per me ti ascolto benissimo, la posizione è ultima. Ti ascoltano la Lucca, ovviamente tutto il varco verso Antonio che è chiuso. Ma quanto cosa c'è davanti lì? Io c'ho quel palazzo, tu dici, te l'ho detto, poi c'è il grattacielo, e se tanto mi chiude il bar a me. Ma non lo vedi tu li punti da lì? No, assolutamente. No, ecco perché. No, io lo vedo proprio nel pieno, poi io non c'ho niente davanti, poi figurati, a 40 metri, e tu sei tre piani, chiuso così. C'è un abisso, io lo prendo proprio in pieno, ma qua sta arrivando la grande, sta arrivando benissimo, adesso poi quando attacca questo alla 48 dovrebbe arrivare ancora meglio perché c'è molta più radio. Kappa. E vabbè, pazienza. No, pazienza, un par di palle, mi si girano io. Non ho fatto il tutto, ma lo fa entrare a mano perché te lo sento solo io. Bel casino. Dobbiamo trovare una soluzione. Già la troviamo, Adesso fammi liberare da questo incubo di truccolare la manica, per carità di Gesù qui. Domani la tocca al bacio. Avviare, staccare, per fare le prove di carico della pompa. E così poi sono libero, cazzo. Sono libero, mamma mia, cazzo. E ci dedichiamo a questa cosa. E infatti, trovare qualche posizione in cui riesco a copiarla anch'io. Ma forse dove stavo dicendo tu dall'altra parte era un pochino più aperto. Dove eravamo seduti sopra il tetto? Eia. Quindi mi pare che andavo male a dire di nuovo. Esatto. Non ci bisogna manco di tirare il cavo, niente, con lo stesso cavo possiamo, perché siamo più vicini. Ci attacchiamo la canna fumaria centrale, amore. È l'unica posizione, perché noi eravamo seduti lì e si vedeva la zona nostra, lì dove eravamo seduti, mentre dall'altra parte dove hai messo tu l'antenna no. Bisogna dire lasciami che se ci fa frenare che l'ho detto che non è parete sua. No, ogni già c'era atterrato. Non lo prima da casa di là e abbiata l'antenne no. Quello al centro sta dicendo Antonio, la canna fumaria centrale, quella dove c'è la tua e quella bassa la sua. Sono due cammini, no? Dove c'è la tua e la sua, ci possiamo ancorare lì. Non c'è bisogno di frenare, no? E poi di mi faccio la canna fumaria, no? Ci attacchiamo i chivi. Abbiamo dei cavattini e ci attacchiamo i chivi. Ma infatti quattro tassellini ci mettono già, sai, a pietra traffi. È talmente leggera quell'antenna che non c'è bisogno di mettere quattro tassellini e ci mette direttamente l'antenna attaccata. Ok, adesso la sento bene, mi ricordo più il nome. Vabbè, a Mauro, sono su QRM, sento chiaro. Trovo leggero che Antonio non lo sente per niente e Mauro non sente Antonio. A me lo manca l'antenna, come sono le zone, cazzo, proprio zero, non si sentono per niente. Ma qua, nulla. sta già benissimo. C'è qualche barco proprio di chiusura, messa nella sua zona. Altuzza. Ehi. Senta che è nuda, nuda. No, non intendo nuda, proprio nulla, locale, nulla, non lo sento niente. No, la sento bene. Ma la sua bene mi stai ascoltando. Mm-hmm. No, non è bene qua. Qua sì, quasi 9 a picchi positivi, ma sai che è quasi 9,5, dai. Se li piatti molto qua qua di prima, almeno 9,20. No, vabbè, ecco. Caccia quella. Vabbè, qua. Si vede. Ehi, Mauro, se ti gira le palle, poi invece una piazza la mantola. Una piazza una un po' più piccola, diversa da quella. Porto il tessilattere mio e mettiamo le tappe dove ci stanno facendo mettere scemo bicchiere. E pulimo una zona 5 a palle, mi noti che adesso a girarmi le palle io. Abbiamo fatto la prova ormai così. Cazzo, abbiamo fatto tutto sto casino per niente. Cioè ti sento io, ti sento Luca o ti sento Antonio? Ma stiamo scherzando. No. Dobbiamo fare qualche modifica, non va bene. Prendo la macchina Antonio. Veloce, va a casa sua e proviamo. Dobbiamo far sì che il cazzo ti senta anche lui, se sennò no facciamo fatto tutto il casino. Per forza. Comunque è molto strano che in quella posizione ci sono 5 metri e Antonio non ti sente. E tu non senti Antonio, quindi è reciproca la cosa. C'è per forza una qualche chiusura a toppare. Nulla. Tanto ma non c'è la riferia chiusa, nulla, non tutto a becco. Oh, tutto aperto. Oh, io di nuovo vedo tanto a becco. E non riesco a tirarlo fuori, nulla, Sto provando, nulla, non riesco a tirarlo fuori. Qua, qua c'è questa cosa qua. Che è in propagazione, se c'è il QRM, lo copre. Non so se è un po'... non so, magari mettere un piccolo linea retta. Io ho due di QRM, questa è 9 qua. Antonio, siamo vicini. QRM c'hai tu? No, io QRM 1-1. E 1-2, anch'io. È calato moltissimo il QRM. Allora, pulitissimo qua. Ma lo sto dicendo, è pulitissimo. È una cosa allucinante, cazzo, guarda com'è fatta proprio il mondo della radio, ma sono cose che succedono, perché a me una volta me l'ha fatto, però in VHF, anzi in VHF, che è una banda un po' particolare, può succedere che se c'è un ostacolo non passi, manco se ti ammazzi. Ad esempio con Luca in VHF noi ci abbiamo non problemi, però il segnale non è così alla grande, capito, come altri in altre zone. Per esempio io parlo da una talina a fondo scala, anche con un watt, invece con te, con Luca, ho problemi, il segnale non è molto forte. Che strano, cazzo, è veramente strano questa cosa. Vabbè, comunque lo risolveremo, non c'è problema. La Maragana lo risolviamo. Allora, il problema è, adesso va bene, ho detto, quando ci sarà propagazione qua, capito? Adesso va bene, lo ascolto bene a Mauro. Però quando c'è un po' di propagazione, sai, il QRM sale dopo, no? Aspetta un attimo, Ok. Lo copre. Faccio lì bisogna avere un po' di spinta, dai. Qualche centinaio di watt, 80, allora si può ragionare. Adesso lo sento benissimo, tranquillo. Non ho picchi positivi come ti ho detto prima. Possiamo fare quello che ci piace. possiamo fare quello che ci piace. Ma non qualcosa abbiamo fatto. Sono un controsenso, tutto quello che abbiamo fatto è che tu non ci sei tu, io ci provi da solo con te, tu Antonio non ti sente, no. Non è un buon sistema quello, non va bene. Adesso ci organizziamo, vai. Facciamo le prove. Spostiamo l'antenna senza verificarla. Provvisoria, si mantiene. Antonio prende la macchina, veloce. Fa un salto a casa e facciamo la prova. Se lui dice che ti sente, allora montiamo lì. Se non ti sente, dobbiamo trovare il punto dove lui ti sente. Così di stucco la bufanda, io mi sono la bufanda e invece ho detto no, non lo sento per niente, che altro discorso c'è. Poi lui manco l'avo muovi tu, guarda tu. Come? Che non ti muova neanche l'avo per lui, nulla. Tu a lui lo muovi leggermente l'avo, però non si capisce quello che dici. No, ma lui neanche l'avo mi muove, nulla, nulla, nulla. Proprio zero, zero, ricordo zero. Per forza, anche sto guardando, ma sono anche più preso, ma non c'è il chic, grazie a te. Vabbè. Controlla tu e vediamo, le prendi tu. Caia. E così. Ma magari basta che la sposti anche di un metro e guarda, sono tranquillo che è sicuro che prende. Basta anche di un metro spostato. Dobbiamo trovare però la posizione esatta. Perché non c'è la che il uno deve salire sul tetto, vado buttato a terra, salire sul tetto e spostarsi, man mano spostarsi, io devo stare qua a stazione fissa e vedere. Quando ti do l'ok che lo sento, dico là, quella è la posizione e bisogna attaccarla lì. È molto molto strano che non riesca a riceverlo. Boh, è una cosa ben strana. Niente, c'è strano. Io di quanti di noi non è mai successo con una verticale così belli, ovvero un sistema di radiazione un po' più complesso. È veramente una... mi vorrei documentare anch'io. Ma non capisco proprio il nesso della cosa. È una verticale, cioè non penso che abbiamo sbagliato antenna, non credo. Ma non avevamo comprato un'antenna per qualcosa. Ehi, bisogna leggere quel foglio che stavamo leggendo, bisogna leggere. Ma se pure c'era un'antenna di VHF, niente di strano. Ma c'è scritto 27 euro. Sentiamo entrambi, c'è un varco che è proprio zona, proprio negativo, capito? Hai mai avuto problemi con i punti in qualche zona, no? Ma no, io ho sempre parlato con i punti. Tutto aperto, strano, no, qua. Oddio, ci vediamo tutto bene, volante, ci vede tutto Sassari. Non è una brutta posizione, Luca. Una posizione ottima, caspita, infatti siamo senti su un tetto con Antonio. C'era anche il un altro signore. Ci ha fatto piazzare molto gentile, ci ha fatto piazzare lì, tranquillo, ci ha dato una mano. Tutto. Mi contenti, hai detto, avevamo qua Luca tu, quindi a me ci arriva molto più forte. Invece arriva no, vai anche a me, come te. E Antonio non lo intende qua Luca però. Non arriva neanche Ittiri che c'era davanti Ittiri. C'era davanti Ittiri, c'è il motore davanti e c'è Ittiri. È una buona zona quella, non è una zona a cuscino. Quanto c'ha di guadagno Mauro? Lì ci guarda guadagno, quanto c'è? C'è un cazzo, manco guadagno. E bisogna chiedere a Torino allora per vedere. Che tanta non ce l'ha. No, ci passo io quando sto salendo in via Milano. Ci passo io e glielo chiedo a vedere. Se no io la sacco e metti la buccia. E a quel punto lì cazzo metto una mini Grand Plain. Non se ne metto una boomerang, che cazzo me ne sbatte. Scusa, nella stessa posizione in cui io metto una boomerang, con la radiale girato verso Sassari e non ci sono problemi. Se non prendi con la boomerang, da lì, se non ti sente Antonio con la boomerang, da lì, cazzo, allora c'è proprio una chiusura totale per Sassari. Facciamo quella prova. Se però non abbiamo resa neanche lì, gliela torniamo. Saliamo assieme. Attacchiamo, gliela torniamo e me la faccio dare un'altra. Facciamo una boomerang. Ecco la boomerang, non si può fare, c'è la boomerang, tu la piatti, è uguale a quella, non prende posto né niente, la piatti nella stessa posizione e giriamo il radiale, quello a 45 gradi, lo giriamo verso Sassari, quello direttivo. Se non lo prendi così, Antonio, vuol dire c'è proprio una chiusura totale, totale. Io. Va bene, quella non la togliamo. copie le lasciamo così e ci mettiamo un altro tipo di antenna. No. Ma se non manco muovi, perché poi non ce ne cambia. Si stacca e si ritorna. La custodia la buttata ce l'hai. Recupera tutti i pesi, quel pezzo di carta blu, il coso suo, il foglio suo bianco, lo stavi leggendo, la busta, ci pinta di nuovo, andiamo e la portiamo, mi faccio la moto tipo l'antenna, sono paziente, quanto pronto a pagare? Cosa molto importante, stiamo avviando il nuovo impianto di truco reale. quindi sarà il fiore all'occhiello di Sassari. Speriamo che vada tutto bene, domani noi ci abbiamo fatto le prove e sembra che sia tutto ok, ma poi c'ho un sacco di cose da fare domani. Vediamo se riesco a liberarmi come abbiamo fatto stasera. Si fa direttamente tutto, anche tu capo, non ci sali sopra il tetto, ma dimmi. Prendi qualcosa che ti è utile, anche che non sia roba di radio. qualcosa che ti è utile dei ragazzi per te, non so. Non lo saccio. Se c'è qualcosa che può servire a me, la te la compro io. Vediamo di trovare una soluzione. Anche, si dice, te lo posso ordinare, una mini Grand Play, qualcosa del genere. Proprio lo fai sapere, perché voglio sapere che antenna sta ordinando, quanti di bicchieri guadagno e che modello è. Quello devo sapere, prima di ordinare. Allora possiamo anche aspettare. Qua si toglie, il cavo si lascia già su, così com'è, in modo che siamo già pronti. Ma però non a prendere, perché a quel punto lì te ne ero uno dei miei, cosa sta lì a prendere pari. Te ne ero uno io, da due più due. E si montano uno di quelli miei, si mette la staffa come cristiani dove stava Fernando Antonio e si piazza l'antenna come cristiani, e se no che se non avremmo fatto tutto questo casino va nuda. Comunque, non c'è problema. Avanti, Otto. Vabbè, io lo saluto anche se non mi sente. Gappa gappa, signore Billy, si è sbatta ora, mi sa che vi saluto e ci aggiorniamo tutte domani. Cambiato al 100%, ciao Antonio, buonanotte, ci sentiamo alle prossime. Gappa gappa, va bene, noi ci aggiorniamo a domani, dai. Telefonicamente domani pomeriggio, ti do un colpo di telefono. Ok, ciao, buonanotte, alle prossime, dai, non c'è problema. Ehi, ciao Claudio, buonanotte alle prossime, ciao Luca, ciao Tore, ciao tutta, ciao anche a Giuseppe e tutte le prossime, ciao ciao, ciao Claudio. No, ciao ciao ciao Anto, avanti Giuseppe. Ehi, ciao Anto, ci sentiamo alle prossime, dai, ciao. Ciao Anto, buonanotte, dai, buonanotte, quando volevi, ci sentiamo. Ho contato qua, mi sento sbatter, allucinante, ragazzi. Poi c'è un bisso, manca a palla. Claudio. Ehi, sbatter dalla monte, no? Manco barba, tengo manco la mocca, dimmi Giuseppe. Ma tu, stavo sentendo... Non so se vuoi fare la telefonia, però fare controllare un computer un attimo. Ci veniva di letto, ci fate un po' di mordetta da cancellare. Andiamo a controllo, vediamo un po'. Ehi, fai, fai. Tanto mi fa sto passaggio e poi chiudo perché domani non va a fare presto. Va bene, ciao Luca, ciao a te, ciao a tutti. Io ho fatto un giro, la canale 1, la canale 80, non sento nessuno blu. Oh, se c'è gente di sotto, non lo so. Io non sento nessuno. Vabbè. Ciao a tutti, buonanotte ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao ciao. Ciao Sergio, buonanotte, non tutto buono, alle prossime. Luca, se ti dopo magari sono qui all'ascolto. Però ci segnale così, ok? Ciao, ciao, buonanotte anche a te. Buongiorno, per domani. Ok, ciao. Dopo, se faccio in tempo, non c'è acceso qua, dai. Anch'io ero preparato un po' per me, stavo guardando Aulias, programma la registrazione e devo controllare le porte seriali, l'audio, e sta cominciando con la roba. No, questo qua devo fare una pulizia di file temporanei, dai. Vediamo, forse è quello, diciamo che va diretto. No, qui col programma ci provo, che funziona. Ci frena. Voglio pulirlo manualmente, che è un buon programma, lo sai? Sì, va bene anche manualmente, ma poi magari ce li installi, se lo pulisci lui dopo. Ma va bene. Ci vediamo già a fare, va? Perché ti devi adirare, ci puoi discutere se ti adirassi. Io sì, mi incazzo, già mi incazzo io su queste cose qua, perché io ho fatto di tutto. Cioè, la gente pure non è entrata. Certo di là, lo pare fatta apposta, mi pongo un po' sul motto. Cioè, entra un po' poveretto e non è entrata. Cioè, entra un po' che, cioè, sono entrato per un periodo e non sono più entrato. Cioè, cazzo, me lo vado a bere. Me lo pongo in macchina e sempre la matta di storia. Cioè, come cazzo mi devo comportare? Ecco, adesso mi sono girato le palle. E vedi che tu sei trovato il mio discorso. Sai, c'è la stessa cosa che sto dicendo io. Guarda, va bene che lasciar perdere il discorso e basta. E continuare a parlare, non parla di questi discorsi, perché a me no, sinceramente non mi interessano più. Non mi interessano più questi discorsi. Io faccio la mia radio, faccio la mia cosa e basta. Come meglio, come ho sempre fatto. Poi questi discorsi no, non li voglio manco più sentire perché mi fanno incazzare. Io non tutti per incazzare quanto vuoi, io posso dire la mia opinione, non è che mi devi impedire di parlare. Cioè io parlo per quello che penso, poi tu puoi pensare a modo tuo. Io se vedo che c'è poca gente, non dico che mi vendo tutto, però almeno la metà della roba che c'è me la vendo, se trovo da vendere. Perché tanto è inutile che 50 apparecchi per poi cosa ne fai? Sono capitali buttati. Anche io ho capitali buttati, se per quello. Però, cioè, tu puoi fare quello che ti pare di piace e poi va. Già, nessuno ti dice nulla, assolutamente. Ognuno della propria roba fa quello che ti pare, quello che gli pare di piace. Anche io ne ho capitali buttati e sinceramente mi sono girato le palle. Però io faccio la mia radio come posso e non me ne frutta niente del resto. Oramai ce l'ho e basta. Tu li discorso. Vabbè, non ci siamo capiti. Tu è inutile che tu ce li abbia, vuoi fare la radio, continua a fare la radio. Noi due la facciamo la sera, facendoci dei discorsi e cose, però poi qualche volta entra più il pao, ma poi più di quello è difficile che entra gente, non è che sta di nuovo morendo tutto, perché ci sono state delle cose che hanno fatto morire tutto quanto. Già, guarda, ne vorrei parlare in verticale io di questa cosa qua, però mi devo essere anche sincero di una cosa che poi ti dirò. Sì, io non ce l'ho, io problemi non ne ho, io sono sempre stato sincero. Se ti devo dire che tu stai sbagliando te lo dico, se tu devi dire a me lo dici a me, non c'è problema. Però il discorso è quello, il succo non cambia. No, no, è una cosa che, cioè, Antonio, è discorso, guarda, se tu mi dici una cosa, Antonio è disposto di fare anche una cosa, perché io quando Antonio ci mette le cose in testa, poi sono così, prendere, mettere tutto da una parte e finita. Non lo sai fare solo tu quello, l'ho fatto per 10 anni, quindi lo posso fare anche adesso, non c'è problema, non te ne arrivare sul tema, poi il resto si fa fretta a mettere da una parte a venderlo, ci vuole poco. No, tu non hai capito mai cosa puoi, tu non hai capito cosa puoi dire io. Hai capito già, tu non hai capito ancora cosa voglio dire, cosa vuole dire Antonio. Ma spero che non c'è un break avanti. Buonasera, 7351 Dario Lucino. Ciao Lucino, mi hai sentito, cordialità. Come al solito stai facendo sempre con un fischietto, con un innesco, dai. Però adesso, 1, 2, 3, prova. Adesso va bene, buonasera, mi hai sentito, dai, dove sei Lucino? Sono qua in zona via Montefurro. Come mi ricevi? E io ti ricevo bene perché sei vicino a casa. Mi va bomba? Prova. 1, 2, 3, prova, prova. 1, 2, 3, prova. E dai, sei 9:30. Positivo, tu sei già con cuore, no? No, io sono via Valdetta. E vabbè, sei pronto a casa, dai. Paga. Sacro cuore qua meno un ragazzo. E positivo, chi è l'amico che c'è in frequenza? Antonio Bombolo, avanti al... Buonasera Lucino, non è ben sentito. Comunque già ne parliamo in verticale di quella situazione là, adesso pensiamo a fare quello che sappiamo fare ogni giorno. Comunque buonasera, ben sentito Leoncino. Non ho capito. Non ho capito Bombolo, come non riesco a capirti bene. Non c'è. Dimmi. Hai rilanciato Antonio? Ah, io non riesco a tirarlo fuori, non riesco a capire perché è troppo facile, vicino. Ho l'antenna che non irradia forte, magari nelle tue vicinanze, è possibile. Vicino a casa Montefurro, è via Valdetta Alta. E magari era di a troppo poco quell'anno, e poi c'è il QRM alto stasera, ma vabbè dai, non c'è problema, se lo senti tu va bene. Gianci, ma sei stato nel fisso in macchina? In macchina sono. E io, quel rumore che si sente sicuramente sono stazionari, Beh, se fischia così, secondo me sono stazionari. Ma è la penna? Poi non so, devo farla controllare nuovamente. Non ce l'hai il Rosmet? No, negativo. Ma ci vuole, io ne ho due, mi ha sempre uno di riserva. È positivo, e a me questa me l'ha messa a posto Alessio con voi. Fatela di controllare, perché esci con questo fischio, ho il microfono che ha qualche problema. Microfono perché c'è una batteria a mezzo scarica, capito? Gappa. Sicuramente sarà il microfono, sarà qualche cosa. Ti volevo dire, ho perso il filo del discorso. Non lo so. Tanto, forse nella tua zucca te lo direi. fa parte di un giro, dai, da morto sì, che stai modulando. Capo, qui si preso la sovramodulata. Sto facendo un vecchio che qui. Appagato. E abiti da queste parti. Positivo. Proprio a Montefuso. Sì, proprio all'inizio abbiamo Montefuso, là. Ho capito, una delle prime curve là. Già, proprio alla... dopo il ponte, hai capito dove c'è il ponte? Sali più su, la prima casa rossa, là. Ho capito. Ma l'antenna non la devi mettere. Antenne? Antenna sul tetto. Non me ne sono mettere. No. Positivo perché qua è condominiale, dunque quello del condominio, ma non lo so, non posso mettere, non posso sarà. Sì, ma non comandano loro, c'è la legge che ti protegge. Loro dicono di no, poi vai a scomposto, vedrai come te la fanno mettere. E adesso vado a informarsi e vediamo un po' se loro comandano loro oppure no, se io. Del condominio, ma adesso dice che disturbo, fa, buffa, disturbo le televisioni e non si può. Una legge, guarda, io ho tutte le leggi a casa, per caso. Nel condominio basta che li presenti quella, non fiatano più. Ci sono tutti articoli di legge che dicono che c'è l'obbligo di far piazzare l'antenna. Naturalmente non deve dare fastidi, però per legge, se tu hai l'autorizzazione, hai fatto la concessione e tutto, puoi pretendere. Non attaccarmi, hai capito adesso? Prendo un palo di 8 metri, lo metto dalla parte da dove sono io in camera e... Sta finì, mi metto la mobile che in casa, no, capito? E dunque adesso prima di tutto perché non lo posso perché il materiale prima poi loro mi hanno voglia di dire quello e faccio quello che voglio. Ma tu sei proprietario? Positivo dell'ultimo piano, sono proprietario. Allora, dimmi al capocondominio che le proprietà vanno divise in parti comuni e la parte tua tu le puoi fare ciò che vuoi. È positivo, sono quello che adesso se loro ci puntano io glielo metto lo stesso faro. Ma io ho lottato, io lo so cosa vuol dire. Perché ho lottato, poi mi sono fatto mettere la firma di tutti i condomini, se non le mettevano la salivo e la piazzavo lo stesso. Io ero già andato dalle scomposte, mi hanno detto se ha problemi io dico a noi. È positivo adesso. Io adesso la settimana prossima vado dal condominio. Se loro non mi danno l'approvazione, vado dalle scomposte e anzi vado direttamente da Cagliari, c'è da Cagliari. Ma devi avere tutto in ordine, macchina omologato. L'antenna piazzata come si vede. Io ho, guarda chi non ho questo qua della macchina, metto questo io ho l'Alan 48, il mogolato e tutto quanto, ho capito? Già va bene. No, io adesso, poi, quando una persona mi dà la carica il trasformatore, lo metto in casa, poi vediamo. Pagato, non tutto. Che Pierpaolo, avanti Pierpaolo. Attenzione binario 21, con silenzio a chi ascolta il radio Vela 5, copie. Ciao Pierpaolo, buonasera, dai. Sono in compagnia di Leoncino e di Antonio, avanti. Ciao Pierpaolo, percepito a 7351, guarda Leoncino. Positivo, dai, ti ascolto anch'io, se con la fischietta di sottofondo, buonasera, ben ascoltato, Radio Vela da questa parte. Ma è basso. Fischio non è, ma se basso. Ah, deve essere problema. antenna, dai, che la devo far controllare nuovamente. Per me possono essere anche stazionari. Chi sono le stazionari, sai cos'è, che mi hanno fatto l'impianto nuovamente all'inizio. Dunque, me la metto a posto e deve essere che si è nuovamente sfilato il filino dell'antenna, dai. Ma non lo so. Pierpaolo, cosa ci dici? Buonasera. Cosa ti dico? Mi sembra più un fischietto che la portiera oggi ha il microfono perficcato. Cappa. Allora mi sembra un problema di batteria quello, eh. C'è la batteria mezzo scarica, tu. Oh, Pierpa. Positivo, dai. Allora mi stai arrivando con un Santiago di qua, che è un radio di due, ma comunque comprensibile, dai. Che zona stai modulando? Scusa se te lo chiedo, Pierpa. Arrivi a bomba qua, cazzo, ma arrivi quasi 7:30. La tua zona? Come? La tua zona di modulazione? No, è buona, cazzo, ma arrivi non 7:30, cazzo, 9 qua segna 9:45. No, no, ti ho chiesto la zona tua di modulazione. Qua è la mia, qua è la Valletta Alta, dai, da Montefurro. Positivo, sei di fronte a me allora. Positivo, ok, ma arriva a bomba. Allora, capo, siamo due pace praticamente, dai. Io sto volando con un piccolo apparato, quattro volanti d'uscita, un antennino di gomma, eh. Già lo so, ma è sotto lo lanciai. Niente, non c'ho niente, io non c'ho niente, io ho quattro volanti di legge, boh. Io ho quasi 5 watt, però con un antennino che a volte è prese e a volte no. Ma sei un vecchio cimito? Come? Sei un vecchio cimito? Positivo. La voce non è nuova, eh. Sì, anche tu non hai nuova la voce tua, eh. Forse ci conosciamo anche di persona, eh. Ok, dai. Com'è il nome attivo? Leoncino. Leoncino, Leoncino. Mi ricordo qualcosa, ma sinceramente adesso non mi viene in mente. Nome di battesimo. Nome battesimo? Vabbè, io ho due nomi attivi. Uno è ecco, Leoncino, e l'altro è Topolino Bianco. Cavaga. Positivo. positivo, adesso già ti ho riconfitto. Senti, cosa stai combinando di bello? Che cosa sto combinando? Mi sono entrato perché mi ha detto Antonio, mi ha detto che c'è un nuovo GP, no, io da quella parte non lo sento, ha detto che adesso lo sento io. Ma comunque ti volevo dire, ti ricordi che ci siamo incontrati prima d'agosto, ma il tuo no, non lo voglio più sapere. Sì, positivo, ma poi mi hanno convinto, sai, io... E nuovamente mettiti dai che non c'è più la solita merda che c'era una volta e dai, ma ho detto no, non ne voglio più sapere qua là, mi hanno convinto e adesso nuovamente sono qua. Ciao Novi, dai, Novi, forse sia tutto a posto. Ok, vai Gianni, liquidità. Adesso ho capito, ma perché Pierpaolo gli ha detto delle sigarette, ho capito al volo ieri. Però non mi rattivo, non me lo ricordavo, accidenti. Ed era quello, però adesso mi è tutto venuto avanti, in questo momento. Cappagnata, ma tu hai detto che a doppio non lo conoscevi, vai. Se non conoscevo, io già la conosco io a doppio Ru, abbastanza bene. Andava bene, tante volte magari non inquadri bene, però poi, come ho detto delle sigarette, in casa Pierpaolo, subito mi è scattato il flash. E quante volte sei venuto tu giù a prendere sigarette e pure tu? Gappa. Ma voi non ce l'avete più, vero? Negativo, dopo la morte di un genitore abbiamo dichiarato morimento. Abbiamo finito la concessione, là, abbiamo tenuto a cazzo quasi 32 anni in silenzio. Peccato però. Era la storia di Sassari. Quando non sapevi dove andare, andiamo alla stazione a prenderci le sigarette, se no quando tornavo dai turni con l'ambulanza, che rientravo presto, andavamo subito a prenderci caffè lì. E positivo. Adesso... Siamo in cerca di nuovamente di trabacco e... che ciò nessuno mi vuole andare in posto, capito? Devono fare santa rancia. E che va forse a fare? Sono barista, basta. No, diciamo, c'è da fare anche a distanza di manovale e tiro dietro, capito? Vabbè. Purtroppo. E tuo fratello, quello grande, sta lavorando, sì. Positivo, dico già, il fratello c'ha il circolo di Torino. Ecco. Vedi, ho preso una cosa così tu pure. Positivo, trovando il locale, l'ho preso anch'io. Capito, l'ho preso anch'io, ma solo che... A parte non c'è materia prima, poi gli affitti sono cari e... c'è la gente che ci vuole un cazzo. Purtroppo è così, è la verità, tu sei già grandetto adesso. E positivo, io ho 44 anni, ieri avevo 30 anni, così. Mi ricordo, avevi 5-6 anni più o meno di me. Cappa. Avanti, Pierpa. Cappa, ripeto, per salutarmi, molta novità, che devo fare cose in questo momento prima. Ci vediamo privatamente, capito? Ciao per papà, no. Ciao a tutti, ok, fatti vedere, dai, ciao. Ciao per papà, ciao, buonanotte, saluta la famiglia, dai. In verticale, si dice in verticale. E va a Pasqua, le sto recuperando, le sto... consigliere. Vabbè, fammi consigliere, mi devi imparare un po' di cose che adesso me ne sono dimenticato. Allora, capo Paolo, buon pomeriggio, buon tutto. Allora, prima tanto io e Gianni, Gianni avanti. Ti saluto Pier Paolo, buonanotte. E anche a te. Ciao Alessio, ben sentito. Va. Ma questo fischio che c'è Giuseppe, secondo te cos'è? La magnetica, già il miracolo l'ho fatto funzionare la magnetica ieri sera. Non lo esce adesso. C'è la magnetica tutto quanto incasinata la vedete la griglia. E quindi è per quello c'è un fischio. Se vuoi abbassare la parola, metti la mazza il microfono, dove quel fischio non te lo fa più Giuseppe. Ma lo fa ancora? Ma dice che c'è un po' di stazionari ancora, Ori. Allora vuoi che adesso va bene. Ah? Adesso si bene, lo vedi. Non l'ho capito. Adesso ti sento benissimo, va bene, lascia così, non tocca nulla. Va bene, no, non esco, sto uscendo tranquillo. Basta che me lo dici tu. A posto così, lascia tutto così. Adesso comunque va meglio, Non si fischiano, c'è la magnetica tutta disintegrata già. Mi manca metà le magnette. È già troppo che scende. È troppo, sono cosciente, e cosa vuoi di più di questa cazzo di antenna del cazzo che mi ha dato l'amico di Pomponio? Vabbè, tanto per uscire, dai. Dopo come ti rimetti in sesto, te la capo. È positivo, già ci penso a Pomponio adesso a sistemarmi un po'. E poi vediamo, riprendiamo... a controllare un po' le niente. Giuseppe, sposato chi? Separato. Ah, quindi vivi solo? No, vivo con mia madre, dai. Che pagato. Sì, vabbè, adesso volevo chiedere una cosa a Pomponio, se lo posso fare. Quindi non sono separato io comunque ancora. Dimmi. Con la magnetica, dimmi. Alessio. Ma se io questa cosa la prendo la lisacco, la porto giù a casa, non ricevo così, no? No, se la attacchi un po' più di fuori già ricevi così, che c'entra? La attacchi alla cucina o al frigorifero, comunque ti piace, oppure fuori il terrazzo, ma poi c'è una tazza di ferro. Il discorso è quello, devi trovare un po' di forno che non attiva la magnetica, poi in seguito ti prendi una bella staffa, una bella antenna e te la metti in casa e non la parli da casa, non costa nulla. Sì, ma non hai capito, io lo stavo cercando a fare questione d'acqua a lui, che a me non me ne fanno mettere qua a casa, e quando veniamo qua mi rompono le scatole. Non devo fare proprio una colombiana, scusami, anche io sono colombiano qua. In Italia non c'è un cosa per prendere, una staffa. Sì, ma è in pratica, io ferro non ne ho, hai capito? E come la staffa, è lo mio. Ah? Ma ormai non c'è un po' di ferro dove... Lo sento io, mi fa più di spegni tu la roba, non spieghi. E vabbè, cerco di procurarmi un tubo e metterci la fascia magnetica e farla modulare da fuori, dai, dalla finestra. E certo, ti prendo un tubo, li metti una gaffetta, ti cagano la caccia sul tubo, invece io uscivo lo stesso. Non c'è bisogno più di una base magnetica, no? Un tubo d'acqua, dopo c'è un muro, gli metti, fai due fuori, quello che ti piace, un due staffe, quello che è. Sto così a posto, sono fatto come ho fatto io. Già c'è la modifica da fare, tu qualche punto di soldi e ti faccio vedere come esci da casa. E vabbè dai, già ne parliamo in privato, dai, già ne parliamo di persona, dai. Non c'è problema per quello. Avanti già. Ci vuole la materia prima, quando c'è quella lì si fa tutto. E già lo sai già che con quella roba c'è qua tutto quanto, anche a Capomondo si può andare. Ma infatti, ma piano Giuseppe, magari ti capita un colpo di fortuna, la moto si ferma. Sì, non fermo da questa tazza. Perché poi adesso fanno contratti di 3 mesi in 3 mesi, però sono gente giovane, capite cosa c'è? Lo so, prendono giovani ragazzini, metà li pagano loro e metà li paga lo Stato. E noi ne abbiamo sempre in culo, hai capito? Però tanto danno il lavoro, lo danno anche tanto fare piace a loro, capito? Quando vai giù allo sfruttamento deve essere delinquente, capito? Per avere un po' di lavoro. Già io ho amici, lo stesso, che ogni tanto 3 mesi glieli danno, però sempre devi fare affidi astronomici. 3 mesi però, dopo che ho fatto, adesso lo sai quante domande ho fatto io a Tronco Reale, al Verde, a quello da dove prendono le cose, le lavatrici, quella roba là, hai capito? Non hanno mai dato risposta, capito? Perché lì entrano direttamente dall'ufficio collocamento, ti mandano a fare la prova in comune e poi li fanno lavorare. Chiamano in certo fare certo loro, capito? Il discorso è quello. Non sei se deve essere importante anche giù lì, capito? Da tutte le parti, prima nel turbino non lo faccio lavorare nessuno, adesso con un incontro pagisco. E adesso certo lavoro lo stanno facendo, che sia uomini, donne, anche mai certo queste donne qua certo fanno il lavoro a altro, capito? Quello dei uomini, lavoro la donna, capito? La mamma la donna fa tutto, fa carabiniere, fa... Vabbè che ce n'erano anche prima carabinieri, anche se non erano carabinieri, facevano il carabinieri lo stesso. Vabbè, ma renditi conto cosa ti volevo spiegare io, capito? Prima quello che faceva l'uomo, adesso, lo fanno anche le donne, capito? Se ti fidi, tanto costruiscono le case anche le donne, se ti fidi. Piano piano sì, perché c'è poco lavoro e si abbassa la qualità di tutto. Non so, invece di far pulire la casa, pensano a fare quello là. E fanno il loro lavoro e tutto quanto. E vabbè, se non ci sono buoni uomini, avranno la donna e sono esperti. Diciamo che ci stanno dando punti. E diciamo che ce la stanno mettendo il culo, altro che scusano la frase. E vabbè, lasciamo perdere. Mangia Antonio. Ok. Adesso mi vado in quelle qui. Cioè, sono sintomo di ritornare in sera. Ciao. Mario Cusimile, ciao Gianni, ciao Giuseppe. Raccomando Giuseppe, fatti sentire. Perché c'è una panchina, c'è a posto, quindi non c'è problema. Se vuoi un consiglio per casa tua, Luigi, vengo e non c'è problema. Ma tu avanti con quattro di cose maritime, già niente ne lampate, a tutti i bimbi, tre trovare una e poi ti fate la tua, se no pigli e ti può alloccare, già che una frutta a te. Canto. Dimmi, oh già. Con il credito. Chiappa. Ok. Non stavo, purtroppo non sono riuscito a sentire quello che stava dicendo Giuseppe. Magari lo sento pure se non avessi tutto questo QRM. Mannaggia che ha inventato la televisione. Vabbè dai, non fa niente comunque. E cosa stava dicendo Giuseppe? Che ormai sono le donne che stanno facendo il lavoro degli uomini. È vero, ma non tutti possono farlo, non tutte possono competere su certi lavori. Sì, tanto ci sono quelle che fanno gli autisti di autotreni, di cose, di pullman, di camion, di autobus. fischietto, ma quelli delle lì. Poi ci si parliamo di altre cose, lavori pesanti, tipo muratori, ma non vale cosa, non te lo faranno mai quello. Cioè, magari qualcuno si trovasse, però non ci dura, perché purtroppo bisogna capire sempre che una donna è una donna, cioè non può reggere tanta cosa. Adesso questi cambi di adesso, fare l'autista e cose, sono un gioco, ma prima non era un gioco. Non sono un gioco. Quando ti danno in mano un articolato, voglio vedere se è un gioco a fare manovra. Chiappa, ma sono diversi. Prima l'idroguida non esisteva, adesso esiste. Fino alle Guriane Librata, c'è qualcuno c'era, ma lui ha. Sì, quello senza dubbio. Però anche adesso è difficile se non c'è lui. Quello è stato un po' di dubbio già. Però il cambio di prima, a quanto mi hanno detto, che ci voleva veramente le braccia per guidare. Io l'ho provato di quelli che ci vogliono le braccia. Con 10 pedali volevo vedere con la M40 senza idroguida. Chiappa, perché dici braccia da camionista? A che sono grossi, cioè diventare proprio un demonio. Chiappa, è detto più liscio, avanti 17. Hai capito? E il discorso è questo. Ci sono dei lavori che possono fare, tanti lavori che possono fare anche le donne, però adesso tu prendi, ti pidi, cazzo, da poco sul treno di Alghero c'erano le donne che stavano guidando, hai capito? Davvero? Sì, no, poi ci sono le carabinieri, ci sono le poliziotte, ci sono le vicinesse, ci sono quelle che sono anche militari, insomma ce ne sono di vari tipi di lavoro. Lo so, appunto perché ho visto cosa significa, perché è arrivata una certa età, che l'hai in culo, hai capito? Quello è anche per i tipi di legge che fanno. C'è una legge che tu forse non conosci, che pagano totalmente dall'ufficio di collocamento. Tu li devi dare solo la formazione, cioè insegnare il lavoro. E poi dico, ma io dopo che ho fatto quel lavoro là, cosa pretendo? Cosa mi chiedono? Cosa sai fare? E mi chiedono cosa rispondo io. Il barista. Il barista, e dopo che dico che faccio il barista, cosa fanno loro? Ma io penso che in certi tipi di bar ti prendano, perché c'è Bastianino, un mio compare, che all'inizio faceva il barista, poi siccome lui aveva studiato l'alberghiero per stare in albergo, diciamo, per fare il portinaio di notte. Adesso sta facendo quello. Lo so, è vero. La partita è diventata portinaio. E io neanche quello riesco a fare. Io quando faccio questi 3 mesi di estate, cosa si crede che faccio? Io faccio il guardiano del controllo delle ombrelloni, dai, lì all'Alghero. Ma sono 3 mesi, cazzo, che non prendo neanche 2700 euro, capito? 3 mesi. È positivo. Passavo al mese, se al mese sto venendo subito. Magari, io avrei messo la firma. Vabbè, quello che si trova, Giuseppe, cosa vuoi fare? Dai, tanto non hai manco preoccupazione di famiglia, cosa per il momento. Vabbè, ma c'è un bambino da mantenere, capito? Io ogni mezzo devo dare il mantenimento, quando c'ho la possibilità, quando non c'ho la possibilità non gliene do. Ah, c'è un bambino, no? Questo non lo sapevo io. Sì, c'ha 13 anni, non è più un bambino, però è un ragazzo, però il mantenimento glielo devo dare adesso, capito? Beh, certamente, sempre padre, sì. è positivo. E quando io non ho la madre non sta lavorando, c'è il convivente che sta lavorando, se non sta niente lavorando, sto dando a casa campa, ma fa questa specie di pensione che ritira mio figlio, ha capito? Perché mio figlio ha una malattia e c'ha dei problemi, no? E dunque ritirano queste 850 euro al mese, no, al mese, e riescono a campare da solo a quella, capito? In tre? No, loro sono due, tre, in quattro. È un po' pochino, eh? Un pochino, perché non stanno facendo niente a figlio, capito? La casa io l'ho lasciata io, capito? Perché la casa era andata a me e l'ho lasciata a lei. Lei è bambino, e ci ha messo con questa persona qua, e dunque io, anche se dovesse lavorare lei, io manco le metto a lei, non gliene chiedo, perché non me ne frega niente, capito? Infatti, ma le situazioni un po' così sono, è positivo, ma quando io ho la possibilità gliel'ho sempre dato, quando non c'è la possibilità glielo rendo io, quando c'è la possibilità l'ho sempre aiutato. Adesso mi trovo in queste situazioni e non riesco a darvi il mantenimento, dunque non è possibile. È inutile che io faccia saldi mortali, io vado a fare una rapina in banca per dare il mantenimento a mio figlio, ma non penso proprio, no, rischia la galera per loro. Diciamo che anche tu sei impossibilitato a farlo, ma speriamo che lo trovi al più presto. Io ti auguro di dare il mantenimento, perché vuol dire che hai trovato lavoro. È positivo, e anch'io mi piacerebbe dare il mantenimento, però io a me mi sta campando mia madre e ritirano, non è che ritiri molto, hai capito? Ritira una pensione, stiamo tirando avanti con 500 euro, hai capito? E dunque è tra luce, saremo, e quella non ci avanza un cazzo, niente, hai capito? Sono cose un po' brutte. E dalla vendita del bar, tutte queste cose qui, qualche gruzzoletto te l'avrei fatto. Tutti i casini che hanno combinato i miei genitori, ve la diciamo, per forse queste cose devo spiegare in persona, dai. Paga, papà ti sta sbraitando. Adesso, un attimino di bianco va via da piccolo, riprendo subito. Via. Pagato. Vabbè. Pazienza, Giuseppe. Già si va avanti. Io già sto andando avanti, non è quello il problema. Però se non ho, io mi sto andando a fare, capito? C'è da fare, andare a fare, aiutate mano a mano, fare. E anche per 50 euro, 60 euro sta andando, capito? Io, ma bisogna sapere anche fare queste cose, se non le hai mai fatte, Giuseppe. Non è che ci vuole diploma per fare cazzo aiutante manovale, cazzo. Vedi cosa stanno facendo gli altri e cerchi di imparare, capito? L'impasto, tutte queste cose, bisogna sapere quanta sempre ci vuole, quanta. E non è così, no, fare così, ma è. Devi imparare prima. Lo so, ma a forza di vedere gli altri, più o meno io di fatto lo so fare, capito? Non è quello il problema. C'è un coso di sabbia, ci vogliono due sacchi di cemento, capito? Sai che cosa che fatto il coso di fare sciapina, grosso, oppure per portare via le macerie, capito? Questa roba così a caldarelle. Io non ne ho mai fatto di cola fritta, non lo so fare, non è il mestiere che io ho mai fatto, però in casa già mi arrangio a fare l'impasto, a fare qualche, diciamo, qualche rattoppo, qualche cosa, si prende a farla all'ingrosso, no? Lo so. Poi anch'io lo faccio, se c'è da fare qualche fiancare, capito, quella roba là. Adesso se tutto va bene dovrei iniziare qua a casa a imbiancare, capito? Comprare la tinta, mettere i giornali e il pannello e imbiancare le carmene, dai, capito? Ma io l'ho fatto da poco, ho cambiato la camera da letto e mi ha caduto. Come? La camera dove sono io, dovevo imbiancare in cucina e adesso, perché io ho letto una persona, ma questo, sì, vengo, ma no, a me, ho detto, fai da te e forse fai meglio, oppure lo dico a mio fratello e un giorno, massimo un giorno e mezzo facciamo tutto quanto, capito? Ma infatti, se non vedi i bruci non vi vedi di nuovo? Non sono quelle 100 euro o 150 euro che prendi, capito? Non è quello il problema, non è quello il problema. Il discorso è questo, se tu mi dai una parola, io la rispetto, hai capito? La mantengo. Se tu mi dici domani vieni, domani devi venire, se no sei la parola del Menga. Niente di parola può cacciare in mente. Me l'ho appurato, ma tu? Chiaro. Sì, purtroppo. Gente di parola si contano sul palmo della mano. Ci sono quelli onesti, per carità, ma ce ne sono anche che vogliono prendere a calci in culo. E quando c'è qualcosa di rotto a casa, chi chiama l'idraulico, questo e quell'altro? Sì, sì, siamo, veniamo stasera alle 4, te l'aspetti. Mi hai zinco. Non mi viene di bandita. Chiaro. E però quello è anche una cosa da fronte, perché è anche del loro interesse lavorare in una certa maniera. Io perlomeno, io col cliente lavoro così. Se dico che ti porto la portavoglia alle 5 sono lì. Cioè, posso tardare di qualche cosettina, non per colpa nostra, per qualche contrattempo, ma se io dico che sono lì, sono lì. Perché mi devo comportare bene. Ma siccome c'è gente che non capisce niente, non sa lavorare, è per carità. Tanto io mi devo lasciare l'azienda. Buonanotte a tutti, ciao Giuseppe, mi ha fatto piacere sentirti. Se sento qualcosa ti faccio sapere. È positivo, ti ringrazio, dai. Tanto devo salutare anch'io, sono in pratica per salutare gli amici, vabbè. Vi saluto alle prossime, ci sentiamo domani a quest'ora, dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao. Dai, ce la risentiamo.